Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il principio di Archimede di Josep Maria Miró, traduzione di Angelo Savelli con la collaborazione di Josep Anton Codina, regia Angelo Savelli con Giulio Maria Corso, Monica Bauco, Riccardo Naldini, Samuele Picchi. La scena si svolge tutta nell'arco di poche ore all'interno di uno spogliatoio di una piscina sportiva. Buon ascolto. Allora siamo d'accordo. Su cosa? Giordi, su quello che ti ho detto prima. Una stagione te con i delfini e io con i cavallucci. I cavallucci non si toccano, sono miei. E poi dovrei prendermi anche coso il Gollum. Non se ne parla. Una stagione. Il negoziato. Una stagione. Perché no? No, aspetta. No, basta. Ehi, ma cosa state facendo? Niente. Stavo giusto venendo da te. Ecco, ti avevo detto che era urgente. Sì, lo so, guarda. Guarda che stavo venendo. Che cos'è questo odore? Odore. Porto questi qua intorno. Lascia stare, lo farà Ettore. Affaccino un attimo. Ti ho detto lascia stare, devo parlare con te. Ettore, per favore, puoi portarlo fuori te? Sì. Che c'è? Cos'è successo con Alex? Successo? Sì. Cosa è successo con Alex? Non è successo niente. Come niente? Scusa, non ho capito. Eppure io sento un odore. Ah, non c'è nessun odore. Non è che stavate fumando? Ma certo che no. Vabbè. Cos'è successo stamattina? Con Alex? Ha paura dell'acqua. Non sto parlando di questo. Ah, allora non saprei. Jordi? Sì? Cosa è successo stamattina con Alex? Si è messa a piangere? Si è messa a piangere, poi? E poi niente, si è messa a piangere e mi ha detto che aveva paura dell'acqua. Ettore, ti ho appena detto che non sto parlando di questo. È che... allora spiegati, perché non capisco. Forse è meglio se ti siedi. Ma perché dovrei sedermi? Non c'ho voglia di sedermi. Perché ti comporti così? Così come? Ma ti metti sulla difensiva, sei nervoso. A me sembra che quella nervosa sia te. Ti ripeto, spiegati, non so di che cazzo parli. E di solito non ti esprimi in questa maniera. Ti sto chiedendo di essere soltanto un po' più chiara. Non so dove andare a parare, entri con questa faccia. Quale faccia? Con questa faccia storta. Quale faccia storta? Con questa faccia storta. Di punto in bianco mi chiedi che è successo con Alex. Io ti dico, si è messa a piangere. Tu mi dici, non è questo. Di che stiamo parlando allora? Si sono lamentati. Di me? Senti, guarda che io l'ho soltanto messo in acqua senza la ciambella salvagente. Il bambino si è messo a piangere e mi ha detto che aveva paura dell'acqua. Questo è tutto. Tutto qui. Sì, lunedì ho detto ai bambini che entro la settimana ci saremmo tolti la ciambella salvagente. Ora, lunedì l'hanno tolta soltanto quelli che volevano? Non erano tutti? Non importa, non era importante lo facessero tutti quel giorno. L'importante era che entro la settimana si sarebbero levati la ciambella. Ora, mercoledì erano abbastanza. Non erano tanti. Non fa niente. L'obiettivo era che oggi, venerdì, tutti si sarebbero levati la ciambella. E così è stato. Alex? Alex era l'unico che ancora oggi aveva paura e non se la voleva levare. E tu cosa hai fatto? Me lo vuoi spiegare? Anna, io lavoro qua da 5 anni. Cosa hai fatto? Ma mi stai facendo delle domande oppure un interrogatorio? Ma nessuno ti sta facendo un interrogatorio. A me sembra di sì, ti ho detto il bambino si è messo a piangere, gli ho parlato, l'ho fatto con molto tatto. Lo sai come parlo con i bambini? Sì. E gli ho detto non ti preoccupare, guarda, i ragazzi si sono già buttati. Senti, io non vedo che cazzo ci sia di così tanto grave. Perché ti stai agitando? È questa se... Mi sto un po' innervosendo. Calmati, Jordi. Senti, parliamone tranquillamente, eh? Senti, questa situazione è ridicola. Sei sicuro di avermi spiegato tutto? Non c'è niente da spiegare. Sicuro? Sicuro. Ti dico che si sono lamentati. Ascolta, io non capisco come possano essersi lamentati per una cosa così stupida. I genitori di Alex li conosco. Gli parlerò, gli dirò le stesse cose che ho detto a te e capiranno. Non sono stati i genitori di Alex a lamentarsi. Ah no? No. E chi? La madre di Paola. Paola? Mm-hmm. Ma Paola si è buttata in acqua mercoledì, era contenta come una Pasqua. Non c'entra questo. Ah, se non c'entra questo... Jordi, non c'entra la ciambella. Ma se non è per la ciambella, perché cos'è? Il padre di Arnau. Quale dei due? Arnau Bosch. Un attimo fa era qua. Quest'uomo non è mai venuto in piscina, viene sempre la mamma ad accompagnare il bambino. Quando Alex si è messo a piangere, tu cosa hai fatto? È questo che voglio che mi spieghi. Ah, Jordi, hai dimenticato l'accappatoio a bordo piscina? No, Jordi, lo prendi dopo la tranquilla! Ecco, stavamo parlando. Scusa, credevo che dovessi venire a prendere questo. Infatti, portala fuori, fammi il piacere di non venire a interromperci un'altra volta. Anna, non pensavo di dare... Hai controllato la cassetta del pronto soccorso? Stavo appunto andando. A controllare. Non c'è più né tintura di iodio né alcol. Non ci sono. No, non ci sono, Hector. Bisogna sempre controllare. Un bambino potrebbe farsi male. Non è possibile che restiamo senza niente con cui disinfettarlo. Sbaglio o questo mese dovevi pensarci tu? Sì. Provvedo subito. E allora? Anna, provvedo, vado subito. Okay. Senti, Hector, ci vuole un po' d'attenzione. Non è possibile che debba pensare a tutto io qua dentro. Eh? Il pronto soccorso va sempre rifornito. Non mi sembra una cosa così tanto difficile da mettersi nella testa. Non risuccederà. Promesso. Stavi fumando? No. Hector, si sente ancora l'odore? No, non io. Oh, la porto fuori io questa. Tanto noi qua abbiamo finito. No, noi non abbiamo finito proprio per niente. Hector, vai. Sì. Va bene. Stavi fumando. L'ha spifferato Hector, eh? No, me l'hai appena confessato te. Quattro tiri, non l'ho manco finita. Lo sai che qui è proibito? Sì, lo so. Sì, però prima quando te l'ho chiesto l'hai negato. Sì? Non mi piace che mi si menta, eh? È una cosa che proprio io non sopporto. Non succederà più. Lo spero proprio. Allora... Non mi hai raccontato che cosa mi faceva il mio istruttore quando ero piccolo? No. Anche a me faceva paura l'acqua, ma paura, figurati, quando ero al mio paesino non c'era verso di farmi frequentare corsi di nuoto. Avevo paura dell'estate perché? Perché significava andare in piscina. E quando arrivava l'ora della piscina io scappavo, correvo, insomma c'era questo allenatore, questo Ares. Ares. Sì, Ares. Come il dio della guerra. Io scappavo. E Ares mi correva dietro come un forsennato. Mi pigliava, mi agguantava e si buttava in acqua con me per farmi passare la paura. E lo sai qual era il risultato? Che avevo ancora più paura. Io la mattina solo al pensiero del corso di nuoto vomitavo la colazione, supplicavo mia madre di non mandarmi ai corsi, la martirizzavo con questa storia. Non ho imparato a nuotare fino ai 12 anni. Poi me l'hanno insegnato queste amiche di mamma, che erano delle signore mature che si riunivano in piscina per spettacolare e per farsi qualche nuotata. Che impiccione. Però erano brave persone. Lo vedi tu il destino, eh? Chi avrebbe detto che io sarei diventato un istruttore di nuoto? Io non capisco con che cosa abbia a che fare tutto questo. Ma con quello di cui stavamo parlando prima. Un trauma infantile? No. Scusa, ma adesso sono io che non capisco dove vuoi andare a parlare. È semplice, Anna. Io non spaventerei mai un bambino. Senti, non ti ho detto quelle cose così tanto per dire. Ti dico che si sono lamentati. Sì, ma tu mi conosci. Dici? Certo, che cosa stai insinuando? Niente. Non l'ho picchiato, non l'ho sgridato, non gli ho fatto niente di niente. L'hai abbracciato e gli hai dato un bacio, Jordi. Di questo si sono lamentati. Mi scusi, non volevo davvero, mi dispiace. Comunque sappia che una cosa non ha niente a che fare con l'altra. Le assicuro che i genitori non resteranno a guardare senza far niente. Se ne vada, la prego. Pronto, sono Anna. Senti, fammi un favore, puoi controllare che tutte le porte siano ben chiuse? No, no, non succede niente. Sono rientrati i bambini dal pranzo. Come no? E dove sono? Oh, sì, fa lo stesso. Senti, quando arriveranno, loro suoneranno il campanello, tu aprili. Però poi mi raccomando, richiudi bene tutte le porte. Grazie. Anna! Ettore. Che ci fai qui? Niente, ho mal di testa, deve essere un'emicrania. Non è che forse volevi spaventarmi, vero? Ettore, guarda, non ho proprio voglia di scherzare, ti ho appena detto che ho mal di testa. Senti, fammi un piacere, appena arriva Jordi gli dici che lo sto cercando. D'accordo. Mi raccomando, digli che è urgente. Jordi! Dove eri? Scappi sempre quando c'è da mettere a posto. Ah sì, e questi qua chi li ha raccattati? Dove erano? Dentro la piscina. Guarda, non dovresti buttarti in acqua dopo pranzo. Ma potevo mica lasciarli lì. Hai visto Anna? No. Ti cerca. Che vuole? Non lo so. Non te l'ha detto? No. È successo qualcosa? Io che ne so. Non ti ha detto cosa voleva? No. Jordi, ti cerca e basta. Sarà meglio che vai, eh? Ha una giornata storta oggi. Ah, se è così, allora calma. Affrontiamola con calma. Senti, però vai, perché sennò penserà che... Ci vado, ma con calma. Lo sai che quella sua sempre... Ha detto mai... che è importante. Oh, sembra che tu non la conosca. È sempre la stessa storia. Jordi. Manca la tintura di olio nell'armadietto. Invece non deve mai mancare. Perché ammatti che un bambino si sbucci un piede. Ci deve essere sempre la tintura di olio. Sempre. Cristo, la tintura. Ah, toccava a te questo mese. Ce ne siamo dimenticati. Ma non ti preoccupare. A quest'ora ci avrà già pensato lei. Poi tornerà e avrà di nuovo qualcosa di importante da rimproverare a tutti e due. La so già la mia, che i bambini potrebbero essere allergici al sugo dei galleggiati. Io comunque te l'ho detto. Senti, Anna sta troppo tempo in ufficio e troppo poco a contatto con le persone. Che stai facendo? Io fumo una sigaretta, ne vuoi una? No. Apri la doccia. Jordi, vuoi far succedere un casino? Se apri l'acqua calda col vapore non si vede il sì, fumo. Ma resta l'odore. Già, fumiamo. No, ti ho detto di no, non qui. Oh, ma lo sai che sei proprio cosa? Un fifone. Tanta paura per una sigaretta. Esci fuori. Non ci penso però. Jordi, no, il regolamento. Oh, non tirarmi fuori questi discorsi, il regolamento lo conosco. Dunque, se lo conosci, dovresti sapere... Lo sai cos'è che mi dà fastidio? No. A me non dà fastidio il regolamento. A me danno fastidio le persone a cui il regolamento non piace, eppure lo difendono come se l'avessero scritto loro. Dai, non ti pare. Ettore. Non viene nessuno. Se ti sbaglio? Se mi sbaglio come la vedo io. Ettore. Non viene nessuno. Ti apri l'acqua calda. Sarà meglio. Che c'è? Che hai paura che Anna ti faccia una fortuna? No. Allora, tu devi essere stato uno di quelli che a scuola non faceva mai forca. Vaffanculo! E poi ti sarà venuta pure a te voglia qualche volta di fare una cosa fuori dalle regole. Ah, certo! Un gran gesto rivoluzionario il tuo, non aspettare nemmeno 2 minuti e fumarti la sigaretta fuori. Una prodezza. Ma non parlo di questo. Di cosa? A dire la verità. Ma se tu potessi non glielo daresti uno schiaffone a quella fighetta snob là, come che si chiama? Chi? Quella tipo insopportabile. Non lo so, ce ne sono tante. Ah, quella con costumina di Hello Kitty. Ah, ma... Adriano. Oh, vedi che la conosci. Non ci avresti voglia di darle uno schiaffone, di dirle ma chiudi quella bocca del cazzo e pensa a sbattere i piedi fino alla fine della lezione. Anzi no, fino a che non te lo dico io. Lo vedi? Guarda, veramente io non ho detto niente. Ma io lo so che ti piacerebbe. Sì, ma finisce. No, non è che ti piacerebbe, tu lo desideri però. Giordi, ma che basta. E mettersi sbraccio in acqua, approfittare per scoparti la mamma. Che giudicare dalla figlia deve essere una cagazzi peggio di lei. L'ho visto, sai come guardi la mamma? Che distrazione. Ma ti si legge in faccia, che pensi? La mamma è una caga cazzi, ma è proprio buona la vacca. È una di quelle che te le scopresti per dispetto, per vedere se si ripigliano. Quattro colpi, dati bene. Bam, bam, no, bam. Da fargli schizzare via i pendagli brillanti dalle orecchie. Cioè, guarda, ti sei proprio per un po'. Dai, Jordi, Jordi, basta. Jordi, basta, è più forte. Adriana, vieni, guarda cosa faccia la mamma, vediamo se impari. Basta! Fammi capire se è arrabbiato o arrapato. Vaffanculo! Sto scherzando. Non ho voglia di scherzare. Jordi, fatti un tiro, vai. No. Quella smorfiosella Adriana. Oh, lo vedi? E che tu nel tuo gruppo tra lei e quello, il coso, il Gollum, mi sembra che tu abbia messo insieme la corte dei miracoli. Sei esagerato. Eppure ce l'hai davanti agli occhi. Ogni santo giorno. Non mi sorprendo che gli altri bambini lo trattino così. Sì, no, che è proprio uguale, è uguale. Anzi, lo sai che ti dico? Che quello del film è pure più carino. Un giorno dovremmo fare un cambio. Di che? Una stagione te con i delfini e io con i cavallucci. Ah, no, no. Perché no? Perché io mi trovo bene con i cavallucci? Ma è un cambio così, per cambiare. Che cosa? No? La smorfiosa e Gollum, bello scambio. Guarda che sono solo un po'... Che cosa? Un po' freak? Ma perché dovrei scambiarli con te? Perché i tuoi sono più docili, i miei già sono ribelli. Senti, non creano i problemi, le cose restano così come sono. Preadolescenti, io me ne scampi. E poi considera che magari i miei non sono ribelli come i tuoi, però in compenso piangono. Piangono, ma non ti stressano. Dai, no, comunque il cambio è impossibile. Perché? Non si può fare. Va bene, ma tu dammi un solo motivo valido. Guarda, tra gli istruttori di nuoto succede la stessa cosa che nelle colonie oppure nei campi estivi. Ma non ci hai fatto caso quando ci andavi? Che cosa? Che c'era sempre quello bello, poi c'era quello simpatico e poi c'era quello noioso. Ora, tra gli istruttori la stessa cosa. Io sono quello bello e sono anche simpatico. E sei io noioso. Grazie Jordi, però lo capisco. Se io prendessi il gruppo dei dodicenni avremmo problemi. Tipo? Tipo sguardi, messaggini, allusioni. Jordi, ma cosa vuoi che guardi? Hanno 12 anni. Adesso a 12 anni sanno più cose di te e di me messi insieme. Ti assicuro che con me non è mai successo. Perché sei quello noioso. Vaffanculo. Oh, facci caso ogni tanto alle occhiatine che mi lanciano e come parlottano poi a voce bassa. Ma che stai dicendo? Occhiatine, qua. Oppure pensi che non abbia mai sorpreso nessuna delle tue care delfine a sbirciarmi il pacco? Ma veramente? Ci puoi giurare? Te sei fuori di testa. Sì, sì. Prendi Cristina e Clara. Scafate! A quelle non sfugge niente, ma sai quante volte le ho sorprese con gli occhi incollati sullo slip a fare commenti sul culo? Stai zitto, non voglio sentire, non voglio sentire. Non vedo niente. Ma non l'hai vista le foto di Cristina su Facebook? Ma scusa, Cristina, quella dei delfini? Lei, certe foto. Tu certe foto com'è che l'hai vista? Mi ha chiesto l'amicizia? A me non l'ha chiesta. Perché sei quello noioso. Oh, facci caso, nel tuo gruppo... A parte il Gollum, che non si sa bene cosa sia, ci sono due ragazzini che perdono olio. Perdono olio? Che perdono già verso l'altra parrocchia. Sì, Jordi, dai, cosa vuoi che perdono olio? Sono piccoli, su. Dai, ma non te ne accorgi. Guarda che ce n'è uno pure nel mio gruppo. Nel tuo gruppo? Va bene. Sicuro? Beh, io comunque a certe cose non faccio caso. Ah, che tu non ci faccia caso è un conto, ma ti assicuro che io non mi sbaglio. No, no, non si fanno cambiamenti, le cose restano così come sono. Io mi tengo i cavallucci che sono più piccoli e danno meno problemi. Fossi in te, toglierei subito Cristina da Facebook. Perché? Perché? Un mio amico, un conoscente che vive a Londra, ha aggiunto due sue alunne su Facebook. Queste hanno scoperto il bar dove va a bere di solito e hanno cominciato ad andare lì per incontrarlo. Jordi, cancellala. Il mio è un consiglio, dammi retta. E quanti anni avrebbero queste due? Non lo so, 7, 17. Sette e 17 non sono la stessa cosa. Jordi, cancellala, davvero. Fossi in te, io lo farei il prima possibile. Cioè, tu parli di Cristina come se fosse un pericolo pubblico. Sì, e te come se fosse una maniaca sessuale. Cancellala! Allora siamo d'accordo. Su cosa? Su quello che ti ho detto prima, Jordi. Una stagione te con i delfini e io con i cavallucci. I cavallucci non si toccano, sono miei. E poi dovrei prendermi anche Ghost e Gollum. Non se ne parla. Jordi, una stagione. Innegoziabile. Perché no? Ehi! Ehi! Ma cosa state facendo? Niente, niente. Stavo giusto venendo da te. Ettore, ti avevo detto che era urgente. Sì, lo so, guarda io. Guarda che stavo venendo. Che cos'è questo odore? L'odore. Porto questi fuori attorno. Lascia stare, lo farà Ettore. Ma facci un attimo. Ti ho detto lascia stare, devo parlare con te. Ettore, per favore, puoi portarla fuori te. Sì. Che c'è? Cos'è successo con Alex? Io non spaventerei mai un bambino. Senti, non ti ho detto quelle cose così tanto per dire. Ti dico che si sono lamentati. Sì, ma tu mi conosci. Dici? Certo. Che cosa stai insinuando? Niente. Non l'ho picchiato, non l'ho sgridato, non gli ho fatto niente di niente. L'hai abbracciato e gli hai dato un bacio, Jordi. Di questo si sono lamentati. E con ciò? Hanno detto che sei stato troppo... Troppo che? Troppo affettuoso. Alex ha paura dell'acqua. Molti bambini ce l'hanno. Mi ha messo a piangere, sì. Volevo solo tranquillizzare. Certo. Certo che sì. Di che si lamentano? Cos'è che insinuano? Jordi. E te? I genitori. Non i genitori. Te, cosa ne pensi te? Sono i loro figli. E tu non hai mai dato un bacio a un bambino? Sì. No, ma certo, ma tu sei una donna, non è la stessa cosa, chiaramente. Se l'avessi schiaffeggiato, se l'avessi sgridato di brutto, il bambino si sarebbe messo paura e non avrebbe più voluto entrare in acqua, e giustamente. Ma io una cosa del genere non la farei mai. Però adesso cos'è? Mi si accusa d'essere stato troppo affettuoso? Calmati, nessuno ti accusa. Ma stanno insinuando, cioè, ma come vuoi che mi calmi? Giorgio! No, è che bisogna averci proprio una mente contorta. E te? Non mi hai ancora detto cosa ne pensi te? Non dice niente. Non so cosa dire. Ma di qualunque cosa. Non lo so. Senti, Anna, tu mi conosci da tanto tempo e sai perfettamente... No, perfettamente non so niente, né di te né di nessun altro. Grazie. Hai sentito? Hai saputo quello che è successo alla ludoteca, quella qui vicino, a 20 minuti sì, da sì, qui? Sì, ci passo ogni giorno davanti. Solo pochi giorni trovo fa. Trovo ripugnante quello che è successo alla ludoteca e tu pensi veramente che io sarei capace di... Io penso che sia normale. No, tu pensi che sia normale? Penso che sia ragionevole che i genitori si preoccupino. Ma solo per un bacio? È stato solo questo? Un bacio e nient'altro? Un bacio? È una cosa innocente. No, non sempre lo è. Beh, il mio sì. Jordi, senti, io voglio difenderti e voglio pensare che non... Però che? Però è difficile credere che un bacio sulle labbra di un bambino sia una cosa innocente. Un bacio sulle? No. Questa è una bestialità. È la verità, no? Ma certo che no, ma da dove viene questa cosa assurda? Da Paola. Paola ha raccontato a sua madre che Alex non voleva buttarsi nell'acqua e che non la smetteva più di piangere e che tu gli hai dato un bacio. Allora lei gli ha chiesto dove gliel'hai dato e Paola ha detto sulla bocca. Ma non è vero, non l'ha visto, che ne so, si sarà confusa. Questo è quello che la bambina dice di aver visto. Ti ripeto, non è la verità. Non l'ha visto, gli sarà sembrato, che ne so. Senti, una cosa del genere non la farei mai, ma te lo giuro. Ha detto che l'ha visto o che gli è sembrato? Non lo so. Lo vedi? Gli è sembrato. Non ha visto bene Paola. Quello che non capisco è mai detto... Le hanno chiesto dove gli ho dato un bacio, ma non ti sembra un po'... Gli hanno chiesto se è una cosa che tu fai abitualmente. E Paola ha detto che tu spesso dai dei baci sulla guancia ai bambini. Ma che però quello che hai dato ad Alex era diverso. Merda. Capisci che... Senti, sei confusa, credimi. Dimmi che non è vero. Te lo sto dicendo, è un'ora che te lo dico, te lo giuro. No, no, assicurami che non c'è niente di cui io debba preoccuparmi. Ma di che cosa dovresti preoccuparti? Lo sai. No, no, non lo so. E di Alex? Di me? Della piscina? Oppure del lavoro? Della tua reputazione? Oppure di qualche altra cosa? Di quale altra cosa? Lo so, qualcosa che non ha niente a che fare con tutto questo. Io voglio solo che tu mi dica che non c'è niente di cui io debba preoccuparmi. Ho detto che il bambino era spaventato. Gli ho dato un bacio, l'ho abbracciato, un bacio sulla guancia. Era per tranquillizzarlo, infatti il bambino si è calmato. Già. No, no, già no, questo è un momento importante per i bambini. Hanno paura dell'acqua, c'è bisogno che si fidino di me. Certo. E come fanno a fidarsi di me se non posso manco avvicinarli? Giorgio. Che come? Se non ti fidi neanche te. E tanto meno i genitori. Uno dei genitori mi ha chiesto delle cose su di te. Ma a quanto pare io non ti conosco abbastanza. Chi? Il padre di Arnau. Questo uomo non è mai venuto in piscina, manco una volta. Beh, oggi sì, un attimo fa era qui, ti cercava. Ma cercava me? Sì. E che voleva? Che t'ha chiesto? Cosa voleva sapere? Può darsi non gli facesse piacere che tu abbia dato un bacio ad Alex. Ma senti, ti ho detto che era spaventato, ho fatto con lui quello che avrei fatto con mio nipote. Sì, ma Alex non è tuo nipote, né nessun altro bambino del corso lo è. Sono i loro figli. Sì, allora? Succedono tante cose, Jordi. Adesso sono spaventati a morte per quello che è successo alla ludoteca. Sì, adesso che io so che sono spaventati, che dovrei fare? Non lo so. Senti, proveremo a calmarli, eh? E faremo in modo che non si sparga la voce, che la cosa non diventi più grossa di quella che è. No, non hai capito. Io non sto parlando dei genitori, io sto parlando di me. Cioè? Cioè, se si sparge la voce da lunedì quando questi vengono a prendere i bambini in piscina, io non me li guardo in faccia. Significa che non posso più mettere le mani sotto al pancino di un bambino quando impara a nuotare? Oppure che non gli posso più mettere le mani sui fianchi? Significa che non saprò più come toccarli, o forse guardarli. Non potrò più nemmeno guardarli, perché qualcuno potrebbe interpretare... No, no, no! E quando poi a fine settimana ne abbraccio uno o due e mi butto in acqua con loro? Allora è un gioco! Lo faccio perché si divertano, infatti gli piace da morire! Lo so! E allora se lo sai... È mia la responsabilità! Ma di che? Che da questo momento in poi io non posso più fare a meno di pensare a queste cose. Ma se succedesse qualcosa, ma hai idea del male che potrebbero fare di questi? Senti, Jordi, chiariremo tutto, eh? Li tranquillizzeremo, così potremo dimenticarci una volta per tutte questa storia. Jordi, sei omosessuale? Che cosa? Ti hanno chiesto anche questo. Ti ho detto che voglio chiudere questa faccenda nel miglior modo possibile. Tu non me la puoi chiedere una cosa così. Te lo chiedo perché non so niente di te. E non ti basta sapere che sto qua da 5 anni e che faccio bene il mio lavoro? Lo sai. Sappi che nessuno ha il diritto di chiedermi una cosa del genere. Sei accoppiato? No. Una relazione più o meno stabile? No! Ti piacciono i bambini? No! Cioè... credo di no. Che vuol dire credo di no? A me piace stare con loro. Mi piace relazionarmi con loro. Sono affettuoso con questi marmocchi, ma niente di più è di diverso. È una cosa che mi viene naturale. Non c'è niente di male, niente a che fare con tutto. No, no. Non ci posso neanche pensare. E sinceramente tu pensi che questo significa che a me piaccia, no? No, credo di no. Giorgio. Jordi, che fai? Me ne vado. Perché? Me ne vado perché tu non ti fidi di me. Io mi fido no, di no, te! No, no, tu dai più credito a quello che dice un genitore a quello che dice una bambina di 5 anni. Non dire che ti fidi di me! Jordi, sono la direttrice della piscina! Per questo me ne devo andare. I genitori! Ma i genitori, ma che cosa i genitori? Te l'ho già detto, quello che è successo alla ludoteca. I giornali non parlano d'altro, loro... I genitori sono buoni quelli. Lo sai che qualche giorno fa una mamma è entrata in un'aula scolastica e ha aggredito una professoressa? Perché? Perché la professoressa ha fatto rientrare i bambini dopo la ricreazione senza che suo figlio avesse finito di mangiare. Cioè i giornali c'è merda, come questa! I genitori ormai pensano di sapere meglio di me come fare il mio lavoro! Io mi preoccupo solo dei bambini! Sono bambini, non sono miei nipoti, non sono manco figli tuoi, non lo sono adesso e non lo saranno mai. E francamente io ho proprio i miei dubbi che qualcuno abbia voglia di fare figli con te con questa faccia storta che ti ritrovi sempre. Che fai? Dimmi che cosa penserebbe uno che entrasse in questo momento e ci trovasse così. Che come la interpreterebbe questa situazione? Che cosa penserebbe che c'è tra noi? Anna si fa presto a equivocare. A vedere cose che non ci sono. Copriti. mi vado a fare una nuotata. Giorgi. Lasciami stare, adesso mi vado a fare una nuotata prima della lezione del pomeriggio. Perché le faccio ancora io la lezione del pomeriggio. O no? Giorgi. Anna, ma cosa ti prende quello? Ettore! Mi ha spaventata! Ma è successo qualcosa? Perché è andato... No, niente! C'è il portafoglio di Giorgi per terra. È andato a farsi una nuotata, deve essere caduto. Caduto? E lei? Che ci fa qui? Lei chi è? Ma credo che sia lei a dovermi dire chi è. Mi chiamo Davide, lei chi è? Io sono la direttrice della piscina, no, qui non si può stare. È una zona riservata al personale. Sì, io ho visto il cartello. Beh, allora se ne deve andare. Mio figlio si allena con i cavallucci di mare. E allora? Non può comunque stare qui? Come si chiama l'istruttore di mio figlio? Lei non lo sa? No. Si chiama Giorgi. Giorgi? È gay? Cosa? È omosessuale. Ma mi scusi, ma non credo che la cosa la riguardi. Lo è. Non lo so. Non lo sa. No. Non sa che tipo di persona è l'istruttore del corso per bambini della sua piscina. E lei non sa neanche come si chiama l'istruttore di suo figlio. Sta mettendo in dubbio la mia... Insinua che non mi occupi di mio figlio. Non ho detto questo. Fatto sta che suo figlio sono anni che viene qui ad allenarsi. Lo so. Eppure lei non conosce il nome del suo istruttore. Non cambi discorso. Voglio dire, avrà fatto il suo nome diverse volte quando suo figlio le racconta qualcosa della piscina. Me lo sarò scordato. Mio figlio è molto loquace, sa? Parla di molte cose, mi avrà detto il suo nome, come anche quello dei suoi insegnanti, dei suoi compagni di scuola, non posso ricordarmeli tutti. Già. Come si chiama suo figlio? Arnau. Nel gruppo dei cavallucci di mare ci sono due Arnau. Arnau Bosch. Arnau Bosch, sì, un gran bel bambino. Dice che vuole diventare bagnino. E parla molto di sua sorella. Ha avuto una sorellina da poco, se non sbaglio. Senta, non faccia la maestrina con me. Che cosa mi vuole dimostrare? Che conosce bene i suoi allievi. Io non dubito che lei svolga bene la sua professione, ma non sono venuto a parlare di questo. Deve essere la prima volta che lei viene qui alla piscina. Di solito è mia moglie che si occupa di portare Arnau e tornare a prendere. Però lei oggi si presenta qui fuori dalle lezioni. Senta, no? Glielo chiedo di nuovo. L'istruttore dei cavallucci, questo... Giorgi. Gay? Non lo so, il fatto che sia omosessuale o no sono affari suoi, a noi non ci riguarda, né lei né me. Allena mio figlio. Anche se lo fosse non sarebbe importante. Ah no? Perché per lei sarebbe un problema. Sì, se fosse un perverso. Un perverso, ma conosco Giorgi da molto tempo. È uno dei nostri migliori insegnanti, è una brava persona, è un ottimo professionista. Senta, io non dubito della sua professionalità, ma come fa a sapere che è una brava persona? Lo conosco. Sì? Sì. Lei stessa mi ha appena detto di no. Ma da dove è entrato lei, eh? A mezzogiorno la piscina è chiusa. Questo non ha nessuna importanza. Lei non può stare qui. Lei lo sa di che cosa stiamo parlando, vero? Lei è venuta a cercarlo. Sì. E pensava di trovarlo. Beh, siamo in pausa pranzo, non c'è seminario. Si tratta di mio figlio. Senta. Le assicuro che non c'è nessun problema. Lei mi assicura? Sì. E come mi può assicurare che non è un pervertito? Che ne sa lei di che cosa gli passa per la testa mentre tocca dei bambini? Tocca mio figlio, per esempio. Le sembra normale che si metta a sbaciucchiarmi, ad abbracciarmi dentro là? Sono gesti mal interpretati, a quanto sembra. Ne è certa? Sì. Anche i genitori di altri bambini l'hanno detto. Le ho già detto che Giorgio... È una brava persona, è un ottimo professionista. Sì. Lei gli ha parlato? No. Nonostante questo metterebbe la mano sul fuoco sulla correttezza di questo ragazzo. Non pensa di appurare se per caso... Senta, gliel'ho già detto! Non ho nessuna intenzione di fare domande sulla loro vita privata, né a lui né a nessun altro dei miei lavoratori. È una cosa che io non ho mai fatto e mai farò. Siamo preoccupati. Mia moglie ha visto su Facebook un commento che hanno postato su un gruppo dei genitori degli allievi dei corsi di nuoto. Su Facebook? Sì. Hanno fatto questo? Allora? Ma possono vederlo tutti? Solo quelli che stanno in questo gruppo. Mi sembra un'accusa molto grave. È normale che i genitori si preoccupino. Sì, ho capito, ma scriverlo così spudoratamente su Facebook senza sapere se è vero o no. Lei ha figli. Lei sta creando solo un falso allarme, se ne rende conto? Ma è possibile rimuovere un commento dopo averlo scritto? È questo che la preoccupa. Mi sembra inopportuno. È un gruppo di soli genitori, ci serve per parlare degli orari dei corsi dei nostri figli, è un gruppo chiuso. Sì, ma possono leggerlo tutti i genitori. Le sembra disdicevole che i genitori stiano in contatto tra di loro? No, ma scrivere questo tipo di commenti mi sembra irresponsabile, sinceramente. Lei non ha figli, è evidente. Che vuol dire? È difficile che possa capire. Certo che posso capire. Lei li segue i notiziari? Sì. Ha saputo proprio 2 giorni fa quello che è successo alla ludoteca? Sì. È a 20 minuti da qui. E allora? Le ha dato fastidio? Certo. È proprio qua vicino. Questo non vuol dire... Ma che ne sa lei? Pare che anche quel tizio fosse una brava persona, un'ottima persona, anche un buon professionista. Ma cosa c'entra questo con quello... Uno dei suoi istruttori si diverte a spacciucchiare e palpeggiare i bambini. Ma che esagerazione! Ha dato un bacio in bocca a un bambino. Questa è un'illazione. Sarà, ma a me sembra strano che lei in una situazione del genere si stupisca che io mi preoccupi della persona che si bagna con mio figlio e che lo porta nelle cabine dove tutti i bambini si sbagliano. Lei non ha figli, è difficile che possa capire. Quando sei padre, cammini per la strada o al parco, non ti puoi distrarre nemmeno per un secondo. E ti senti salire il cuore ancora quando, all'improvviso, anche se lo seguivi fino a un attimo prima, hai l'impressione di aver perso di vista tuo figlio. La sola idea che ti sei distratto e che proprio in quel momento qualcuno abbia potuto prenderlo, spingerlo in una macchina e costringerlo a fare certe cose, può farlo sparire per sempre. Sei sempre preoccupato. Preoccupato che qualcuno gli possa fare del male approfittando che è ancora un bambino. Dovesse succedere una cosa del genere, io non me lo potrei mai perdonare. La capisco. Sì? Sì, certo che la capisco, ma credo che lei stia facendo confusione. Sta tirando su un polverone dal niente. Eppure li ha visti i notiziari. Sì, e mi è venuto il volta stomaco, ne stia certo. È venuto il volta stomaco, ma non, non si azzardi a metterlo in dubbio. Io sto solo cercando di farle capire che non c'entra niente. Come può esserne certa? Mi ha appena detto che lei non sa niente di questo ragazzo, della sua vita, delle sue tendenze, né a quanto sembra intenzione di scoprirlo dal momento che per lei il rispetto della vita privata dei suoi lavoratori viene prima della sicurezza dei bambini e delle preoccupazioni dei genitori. E secondo lei cosa dovrei fare? Questo ragazzo non può lavorare con i bambini, è troppo... Ma è stato solo... Senta, ma non ho pensato che potrebbe essere stato solo un gesto spontaneo, senza malizia, senza cattiva intenzione. Un bacio sulle labbra. Non si sa se è vero, è quello che ha detto una bambina... E comunque lei non si può presentare qui in questo modo, le cose non si fanno in questa maniera. È mio figlio e lei non è madre. Non è giusto che me lo ripeta. Neanche che lei mi tratti da paranoico, a me e agli altri genitori. Non lo sto facendo. Ah no? Vorrebbe farmi credere che non c'è niente di cui preoccuparti su qualcosa che invece ci preoccupa moltissimo. A volte, quando sto a casa, vedo dalla finestra di un palazzo che sta proprio davanti al mio uomo. Passa le intere giornate davanti al computer, deve avere la mia età. Dai gesti, da come batte sui tasti, da come ride, è evidente che parla con qualcuno che gli piace. Da qualche giorno l'ho sorpreso più di una volta mentre si spogliava. Si levava la camicia e tutto il resto, abbassandosi i pantaloni. Deve farlo davanti a una webcam. Come l'ho visto io, può vederlo mio figlio. Immagino che quest'uomo sia capace di farlo davanti a chiunque. Ho dei figli e mi preoccupa che possano vederlo come si abbassa i pantaloni. Però soprattutto mi preoccupa chi potrebbe esserci dall'altra parte di quel computer. Un giorno o l'altro potrebbe esserci uno dei miei figli che riesca ad ingannarlo e convincerlo ad attraversare la strada e bussare alla porta del suo appartamento. Purtroppo cose del genere succedono ogni giorno e con persone di cui mai ti immagineresti. Ne ho sentite troppe di queste storie. Casi di bambini a cui succedono delle cose di cui non si rendono neanche conto. Quando hai dei figli, non puoi permetterti di abbassare la guardia nemmeno per un minuto. In strada, al parco, a scuola. A volte ti accorgi che qualcuno sta guardando tuo figlio, lo guardano persone normali. Ma non Vuoi sapere perché lo guardano? Mai. Quando si tratta di un bambino, di tuo figlio, non puoi fare a meno di diffidare degli adulti. Mi capisce? Gliel'ho già detto. Lei non può stare qui. Adesso me ne vado. Grazie. Comunque non mi ha ancora detto che cosa ha intenzione di fare con questo ragazzo. Non ho niente da dire. Non ha detto che se ne stava andando. Il ragazzo, l'allenatore... Si chiama Jordi. Questo Jordi quando torna? Se ne vada, la prego. Devo immaginarmi che farà lezione questo pomeriggio così, come se niente fosse. Senta, non me lo faccio ripetere un'altra volta. Le ho già detto che lei qui non ci può stare. Mio figlio non verrà più alle lezioni. Se lo può scordare. La disdetta la deve dare lei alla segreteria. Si può fare per telefono? Sì. La farò oggi stesso. Sono affari suoi, è un suo diritto. Dal momento che lei non ha intenzione di fare niente. Le posso fare un'ultima domanda? Me ne ha fatte molte, le ho già detto che sulla vita privata... No, no, su di lei. Perché? Corporativismo. Perché pensa fermamente nella difesa del diritto della vita privata, per prudenza, per coscienza, per prendere tempo, pure che ne so. Si può sapere che cosa le passa per la testa in questo momento? Sì, ho un figlio. Perché non me l'ha detto quando gliel'ho chiesto? Mio figlio, adesso avrebbe 23 anni. Mi scusi. Non volevo davvero, mi dispiace. Comunque sappia che una cosa non ha niente a che fare con l'altra. Mi assicuro che i genitori non resteranno a guardare senza far niente. Se ne vada, la prego. Oddio. Pronto, sono Anna. Fammi un favore, puoi controllare che tutte le porte siano ben chiuse? No, no, non succede niente. Sono tornati i bambini dal pranzo. Come no? E dove sono? Ah, sì, fa lo stesso. Senti, quando arriveranno loro suoneranno il campanello, tu aprili. Però poi mi raccomando, richiudi bene tutte le porte. Grazie. Anna! Arthur! Che ci fai qui? Niente, ho mal di testa. Deve essere un emicrania. Non è che forse volevi spaventarmi, vero? Ecco, per favore, non ho voglia di scherzare. Ti ho appena detto che ho mal di testa. Senti, fammi un favore. Appena arriva Jordi, gli dici che lo sto cercando. D'accordo. Mi raccomando, digli che è urgente. Dov'è che stai andando? Prima il gruppo del pomeriggio. E va già là, sì. Ah. Anche. Non ci vai mai così presto. Come no? Ma devono sempre aspettare. Sempre, dai, forse qualche volta, non sempre. Si può sapere che guardi? Niente. Alla portineria mi hanno chiesto non so cosa a proposito di un costumino da bagno. E di che parli? No, solo se abbiamo trovato un costumino da bagno e delle ciabatte. No, non so niente. Di uno dei bambini. Ettore, questi mocciosi perdono ogni giorno qualcosa, non lo sai? Da dove sei venuto? Che cosa ti ha raccontato Anna? Che doveva raccontarmi qualcosa? No. Avevi detto che andavi a farti una nuotata. Sì. Però sei asciutto. Ma che fai, controlli? No, no, no. Cioè, solo che Anna mi ha detto che andavi a farti una nuotata e poi torni asciutto. Completamente asciutto. Io credo che sei andato in ufficio, dico bene. Che cosa t'ha detto Anna? Che cosa doveva dirmi? lasciamo perdere. Sei andato a cancellare Cristina da Facebook. Siamo sicuri che non ti ha raccontato? L'hai cancellata, vero? Non avresti dovuto accettarla, non ci vuole nulla a equivocare. Ma di che cosa mi stai accusando? Io non ti accuso di niente. Hai detto no, non ci vuole ti nulla? Ti avevo avvisato, Giorgio. Ettore, è da quando sono entrato che mi guardi con una faccia come se avessi fatto... Cosa? Che cosa? Come se avessi fatto qualcosa di disgustoso. Io non ti guardo con nessuna faccia. Ah, no. E le domande? Le allusioni? Che ti ha detto Anna? Che succede? Giordi, stai calmo. Oh, c'ho le palle piene che mi diciate di stare calmo, eh? Mettiti nei miei panni, provaci. Io non ho fatto niente, torno alla ora di pranzo e mi ritrovo in mezzo a tutta questa merda, ma come vuoi che mi senta? Qua in piscina nessuno sa niente, tuttavia si suppone che già lo sa tutta la piscina. Se tu non avessi fatto quello che sarebbe... Non ho fatto niente, no, se tu ti fossi limitato soltanto a fare... Ma tu pensi no, che... Giordi, io non penso niente, faccio il mio lavoro e basta. Senti, io ritratto che... I bambini stanno bene con me. Io non capisco come sia possibile che ci sia certa gente a cui passi per la testa cose così. Tu... Guarda, nemmeno io so cosa pensare, lo capisci? Ma noi siamo amici, o no? Chi mi conosce meglio di te? Quindi? Sei andato a cancellare Cristina da Facebook? Giordi, sì o no? Tutto quello che hai detto sui delfini e i cavallucci che è... Che ho detto? Le occhiate al pacco, i commentini, perdono olio... No, stai scherzando. No. Non è spiritoso. Non sto scherzando. Erano cose dette senza la minima... No. Senti, forse era meglio se non lo dicevo, ma erano cose dette tra noi. Qua, roba da spogliatoio, tra amici. Cose dette senza la minima intenzione. Ma noi ci diciamo le cose peggiori, non significa che io te... No, non cercare di mettermi in mezzo, eh. Io queste cose non le faccio mai, le fai solo te, Giordi, io mai. Sia ben chiaro. Hector, se Anna non ti avesse raccontato di questo malinteso... Questo... Cioè, di questo equivoco. È equivoco. Equivoco, sì, è chiaro, si tratti di un equivoco. Se Anna non te l'avesse raccontato, tu non te li ricorderesti neanche i miei commenti. Sarebbero rimaste quattro sciocchezze e basta. Tra noi. Ma non dovevo raccontartele. È vero che gli hai dato un bacio in bocca? No. No. No. No. Avevi detto che non ne sapevi niente di un costume da bagno smarrito, giusto? Che cazzo ci fa un costume da bagno dei bambini nel tuo armadietto? Avete controllato... Perché il... hai detto che non l'avevi trovato? No, sì, non ci posso credere, avete controllato nel mio armadietto. Giorgio, perché hai negato? Cosa ci fa un costume da... Allora, è successo qualcosa... Me ne sono dimenticato, come... cazzo! Ma che pensi? Ma che credi che adesso io abbia la testa per pensare a queste cose? A una merda di costumino lasciato da un bambino? Ma che metti fuori adesso? Che vuoi che pensi? T'avevo detto di non tenerla, Cristina, su Facebook. Che una cosa così può portare dei problemi. Come anche questa del cos... Perché gli hai dovuto dare un bacio? No. No. Giusto. È la stessa cosa. Un bacio. Ah, è vero. L'allenatore è simpatico. Giordi, pensa a fare il tuo lavoro e basta! No, tu dovresti saperlo bene che ci sono delle cose che è meglio non fare, che se le fai hanno delle conseguenze! Io vedo che tu hai sempre così chiaro il limite della decenza, vero Ettore? Che cosa si può fare e che cosa non si può fare? Lo sai cos'è preoccupante? Che tu ci torni sopra un po' troppo spesso. Che cazzo vorresti dire? Ma è chiaro, sei ossessionato, altrimenti non si spiegherebbe come ci pensi così tanto, no? Guarda che sei te che quello che sei pacato nel cervello! Sì, e tu sei un represso di merda. Che pensi di fare cose che... Non lo so. Scusami. Ettore. Adesso tu però devi credermi adesso. Crederti? Giorgio, lo capisci che io vorrei crederti? Ma Adana, hai detto che andavi in piscina, sei andato in ufficio! Sì, sono andato in ufficio. Sono andato a cancellare Cristina da Facebook. Lo vedi? Sono andato a controllare la lista degli amici su Facebook per vedere che non ci fossero altri ragazzini. Ho scorso due volte tutta la lista delle foto che avevo archiviate. Mi fa male la pancia. Mi sento le budella attorcigliate. E tu sono andato in bagno e mi sono detto imbecille, che fai? Adesso se vogliono controllare vedono pure il giorno, persino l'ora in cui l'ho fatto. Lo capisci che adesso qualunque cosa io faccio dica è peggio? Che posso complicare le cose? Ettore, mi sono messa a piangere, sono terrorizzato. Ecco, adesso sai cosa ho fatto. E valla a dire ad Anna. O a chi ti pare. Era qualcosa contro le vetrate? Giordi, Ettore! Che succede? Cos'era quel colpo? Oh. io che fai? Dimmi che cosa penserebbe uno che entrasse in questo momento e ci trovasse così. Come la interpreterebbe questa situazione? Che cosa penserebbe che c'è tra noi? Anna, si fa presto a equivocare, a vedere cose che non ci sono. Copriti. Non vado a fare una nuotata. Giorgio. Lasciami stare, adesso io mi vado a fare una nuotata prima delle lezioni del pomeriggio, perché le faccio ancora io le lezioni del pomeriggio. O no? Giorgio. Anna, ma che cavolo ti prende a quello? Hector, mi hai spaventata. È successo qualcosa? Perché no, niente. C'è il portafoglio di Jordi per terra. È andato a farsi una nuotata, deve essere caduto. Caduto? Ti è passato un mal di testa? No. Sempre peggio, come se mi dovesse esplodere. Ma hai preso niente? No. Che succede con Jordi? Io dormo male. Che vuoi dire? Che ultimamente faccio solo brutti sogni. Capisco, ma questo che cosa ha a che vedere con lui? Non... Niente. Forse tutto. Ti ricordi cosa sogno? Guarda che è importante ricordarselo, eh? Perché? Tu sai interpretarli? Guarda, per prima cosa bisogna ricordarsi cosa si è sognato. Sai come faccio io? Quando faccio un sogno, allungo di qualche minuto il dormiveglia, così posso trattenerlo e poi lo ricordo dopo. Per ricordarlo? Sì. E se no i sogni svaniscono? Anna, guarda che è difficile ricordarli, eh. Ci sono cose che sarebbe meglio scordare. Insomma, allora vuoi dire che non te ne ricordi? Magari. Ogni volta che ho un incubo io faccio sempre lo stesso sogno. La piscina è piena di bambini. Gridano, urlano. All'inizio penso sempre che si stiano divertendo, però poi comincio a vedere le loro facce spaventate, come agitano le braccia chiedendo aiuto prima di sprofondare nell'acqua. I loro genitori sono sulle tribune, parlano tra di loro, ridono, scherzano e non si accorgono di nulla finché finalmente uno di loro vede quello che sta succedendo e avvisa gli altri. Allora si mettono tutti a gridare verso di me chiedendomi di fare qualcosa e allora corro da una parte all'altra della piscina però senza gettarmi nell'acqua. Io non lo so perché non ci riesca. Io lo vorrei. Perché non ce la faccio? Potrei salvarne uno, almeno uno, però quando io mi decido, i bambini allungano le mani e sprofondano. Tutti. Guardo la piscina ed è vuota. Dalle tribune i genitori gridano, gridano fortissimo, gridano ancora più forte di quanto gridassero prima i bambini. La piscina è vuota. E il fondo è pieno di punti neri. Non ho bisogno di prolungare il dormiveglia per ricordarmelo, è sempre lo stesso sogno. Ma lo sogni spesso? Troppo spesso. Però non hai parlato con nessuno? No. Perché? Perché non è facile trovare le parole per parlare di certe cose. Sì, capisco. Questo ha a che vedere con... E tu cosa sai? Niente. Cioè, qualcuno della piscina mi ha detto qualcosa. Io non ne ho mai parlato con nessuno, che ti hanno detto? Che hai perso un figlio. Sì. Mi dispiace. Aveva 16 anni. Ora ne avrebbe 23. Mi chiedo continuamente, sai, perché non ho potuto fare niente. Da piccolo mio figlio era un bambino che non parlava molto. poi, anche dopo, da ragazzo, quando tornava da scuola, parlava poco, ma non diceva mai niente di strano, niente che potesse far sospettare. Però, quando finiva l'anno scolastico, lui continuava sia ad essere un ragazzino introverso, ma era come se, allontanandosi da scuola, lui respirasse un po', solo un poco, ma come se si sentisse alleggerito, ecco, alleggerito. Ma alleggerito da cosa? Ancora oggi io non so cosa è successo e perché l'ha fatto. 7 anni. Sono già passati 7 anni. E non lo so, non lo saprò mai. Me lo chiedo continuamente, ogni giorno. Era successo qualcosa a scuola, con qualche ragazzo, con qualche nuovo compagno, con qualche professore, aveva qualche problema in quel periodo, aveva qualche problema con me o con suo padre, con tutti e due, io non lo so. Non lo so, ma sai qual è la cosa più terribile? Che non c'è un giorno in cui io non mi chieda perché non me ne sono accorta, perché io non l'ho potuto evitare, perché Giorgio ha dato un bacio a uno dei cavallucci. Cosa? Sì. Un bacio? Sulle labbra. Cioè, questo è quello che dice una bambina. Lui dice di no, ma i genitori hanno protestato. Genitori? Sì, i genitori. Cazzo. Cazzo, i genitori, cazzo. Cazzo, i genitori, i genitori. I genitori. Sai una cosa? Anni fa ho lavorato come tutor di gruppi giovanili. Avevo 19, 20 anni. 21, forse. Sì, una tutor di uno di quei gruppi Progresso. Noi andavamo al fiume e facevamo il bagno tutti nudi insieme ai ragazzi e sai, una volta due miei colleghi dormirono con nel mezzo una delle bambine che non riusciva a dormire, non smetteva più di piangere perché sentiva troppo la mancanza di casa e una volta noi ci siamo sfidati per gioco a chi faceva la catena più lunga legando insieme tutti i nostri vestiti e tutti si sono spogliati e io mi sono tolta anche il reggiseno davanti ai ragazzi. Sono rimasta per un po' così, ma tutti che ridevano e i tutor fischiavano perché mi scoprissi. Beh, a dire la verità, mi avevano già vista nuda quando facevamo il bagno insieme. Però in quella situazione, Ettore, era solo un motivo di divertimento, di gioia, lo capisci? Tutto questo oggi sarebbe impensabile. Oggi ci sono cose anche meno inoffensive di quelle, ma che a nessuno gli verrebbe mai in mente di fare. E se anche solo si azzardasse a farle, gli cadrebbe un masso addosso. Insomma, voglio dire, per evitare problemi adesso noi cerchiamo persino di non rimanere mai soli con un bambino. Nonostante questo, certe cose succedono ancora continuamente, anzi mi sembra che ne succedano molte più adesso che prima. Perché? Che sta succedendo? Cosa stiamo facendo noi perché succeda tutto questo? Io non posso smettere di chiedermi perché gli ha dato un bacio, perché? Io vorrei credere che Giorgi è come eravamo noi, con lo spirito libero dei tutor e non come tutta questa merda della ludoteca. Non so perché mi faccio prendere così tanto dai dubbi, ma in tutti questi anni ho sempre pensato che Giorgio fosse un bravo istruttore, un bravo ragazzo e che mi piaceva il suo modo di fare, la sua spontaneità. Ettore, io vorrei dire il contrario, ma capisco più di chiunque altro la paura di questi genitori. Io non so chi è, Non so se i genitori hanno ragione, non so perché continuo a sognare tutte le notti i bambini che affogano in piscina e non so che cosa credevo di trovare in questo armadietto, nel suo portafogli, sul suo cellulare, non so perché ti sto dicendo tutte queste cose e non so se ho la testa per aggiustare le cose, non lo so davvero, non lo so. Oggi è venerdì, quindi io credo che la cosa migliore sarebbe quella di far saltare gli allenamenti del pomeriggio, far passare il fine settimana e così poi il lunedì. Tu? Io certo! Te ne saresti accorto se ci fosse stato qualcosa di ambiguo, vero? Ambiguo con... cioè... con qualcuno dei bambini, un gesto, una frase, un'occhiata, qualsiasi cosa abbia potuto dire o fare. No, lui, Jordi, è... Come? Nel senso, è fatto così. Fatto lui, così? Come? Che lui è scherzo, cioè... Hector, me lo diresti, vero? Hector, questa non è una cosa da far passare sotto gamba. Anna, tu pensi davvero che... cioè, che io abbia fatto? Non lo so. Come non so se lui lo sa. Io non credo che lui sappia quello che prova quando sta con i bambini. Non credo che lo sappia coscientemente, capisci? Questa è la cosa che mi fa più paura. Credo che adesso sia il caso di rimetterlo a posto. Sì. Un costumino da bagno. Cosa? Nell'armadietto di Jordi c'è il costumino di uno dei bambini. No, Anna, noi raccogliamo sempre qualcosa. I bambini si dimenticano sempre di tutto. Sì? Sì, costumini, asciugamani, ciabatte, loro lasciano sempre qualcosa. Sicuro? Sì, veramente. Davvero? Sì. Già. Anna! Dov'è che stai andando? Andiamo al gruppo del pomeriggio. E vai già là? Sì. Ah. Anche? Non ci vai mai così presto. Come no? Ma devono sempre aspettarti. Sempre, forse qualche volta, non sempre. Non saprei che guardi. Ah, ma niente. Alla portineria mi hanno chiesto non so cosa a proposito di un costumino da bagno. Di che parli? No, solo se abbiamo trovato un costumino da bagno e delle ciabatte. No, io non ne so niente. Di uno dei bambini. Ettor, questi mocciosi perdono ogni giorno qualcosa, non lo sai? Da dove sei venuto? Che cosa ti ha raccontato Anna? Perché doveva raccontarmi qualcosa? No. Avevi detto che andavi a farti una nuotata. Sì. Però sei asciutto. Ecco. Adesso sai quello che ho fatto. Vada a dire ad Anna. O a chi ti pare. Che cos'era? Era qualcosa contro le vetrate. Matti! Jordi! Ecco! Che succede? Cos'era quel colpo? Stanno tirando delle pietre! Cosa? Sì, ci sono i genitori e i bambini lì davanti all'edificio e tirano delle pietre e gridano! Cosa gridano? Gridano! Che cosa gridano? Gridano il tuo nome! Ti insultano, vogliono che tu esca a farti vedere che te ne vada! Il mio nome gridano? Sì! Non ci posso credere. Questi qua sono qua fuori, lanciano pietre e si sono portati dietro i bambini? Sì, ma non sono i genitori che tirano le pietre, sono i bambini! I bambini? Sì, i genitori gridano, i bambini raccolgono pietre e altri oggetti e li lanciano contro le vetrate! Mica, ma tu ci lanciano pietre? Sì, anche qualcuno dei delfini! Anna! Le porte sono chiuse! Sì, lo so, io non lo so se ho fatto bene, ma non la smettevano di gridare! Genitori che chiedono spiegazioni, altri che volevano ritirare i figli dai corsi! Devono essersi messi d'accordo con il passaparola! Merda, c'entra Facebook e questa cosa... Sì, Sì, i genitori hanno creato un gruppo. Anna, Facebook che cosa c'entra col fatto che stanno tirando delle pietre? Che devono essersi messi tutti d'accordo per ritirare i loro figli dai corsi. Hai capito? Io non lo so se ho fatto bene, ma ho telefonato subito in portineria dicendo di chiudere tutte le porte e di mettere un cartello con su scritto che sarebbero stati sospesi tutti gli allenamenti fino a lunedì. Ma perché hai fatto una cosa del genere? Perché non mi è venuto in mente nient'altro. Così sembra che abbiano ragione, no? Io non so poi ma cosa fare. Hai complicato le cose, Anna. Io non sapevo. Devono aver trovato il telefono staccato, ecco perché sono venuti. Io devo parlare con i bambini, io... No, poi adesso, ci sono le telecamere. Cosa? Sì, le telecamere della televisione, sì, qualcuno deve averle chiamate. Sono bambini, che cosa gli hanno detto? Sono bambini, non è possibile, si rendono conto di quello che succede, pure stanno qua e lanciano pietre. È come se le lanciassero contro di me. Io stamattina ci giocavo con loro e adesso lanciano pietre! Io esco! Jordi, no! No, non puoi! Dovresti vedere la rabbia, le loro facce! In questo momento sarebbe impossibile farli ragionare! E allora che facciamo? Anna, che facciamo? Anna! Perché mi avete mentito prima quando vi ho chiesto se stavate fumando? Se senti ancora l'odore qui dentro! Sto facendo 4 tiri. No, tu hai detto di no. Invece avevi fumato una sigaretta. Qui non si può fumare, è proibito. Io devo chiamare la polizia. Polizia? Sì, dobbiamo chiamare la polizia, Jordi. Stanno tirando pietre contro la piscina. No, non le lanciano contro la piscina, le lanciano contro di me. La cosa più giusta da fare adesso è chiamare la polizia. Vabbè. Aspetta. Che c'è? Una cosa soltanto. Un'ultima cosa. Ma tu pensi veramente che io sia... Ettore. Ma tu pensi che io sia capace di... Non so. Perché se adesso arriva la polizia... Vi fidate di me? Anna? Ettore! O no? Anna! Ho paura! L'abbiamo tutti. Siamo tutti spaventati. Siamo tutti spaventati. Il regista Angelo Savelli presenta lo spettacolo Il principio di Archimede di Josep Maria Miró, traduzione di Angelo Savelli con la collaborazione di Josep Anton Codina, regia Angelo Savelli con Giulio Maria Corso, Monica Bauco, Riccardo Naldini, Samuele Picchi, in scena allo Spazio Diamante a Roma fino al 17 marzo 2019. Benvenuto Angelo. Benvenuti a tutti voi ascoltatori. Allora, traduzione perché è un testo catalano. Lo presenti un po'? Sì, è il testo di un autore, quando l'ha scritto credo avesse 35 anni, di un autore contemporaneo di Barcellona. Un testo molto fortunato perché dopo il suo debutto a Barcellona ha praticamente invaso il mondo con messe in scena che vanno dal Messico agli Stati Uniti, all'Argentina, alla Francia, perché probabilmente è quello che ho poi visto io. Ho proprio visto la rappresentazione di questo testo a Barcellona. È un testo di una tale attualità e di una tale bellezza che ha convinto tutti ed era giusto farlo vedere anche in Italia in una edizione importante, curata, molto, molto curata. Il tema dello spettacolo in apparenza sembra essere quello di un caso di pedofilia all'interno di una piscina. C'è il sospetto di questo caso di pedofilia e però apre la tematica su tutt'altri fronti, cioè su la verità, l'ambiguità della verità e soprattutto sul fatto che oggi una notizia, che sia vera o falsa, non importa. Al momento in cui una notizia entra nel tritacarne di Facebook, dei giornali e via discorrendo, assume una sua verità a priori e dà luogo a qualcosa anche di nevrotico, di psicotico, soprattutto in un momento, in una società come la nostra che vive nelle tensioni e nel sospetto continuo. Insomma, questo sbattere il mostro in prima pagina è anche una maniera per difendersi da questa paura che ci ha preso tutti di tutto ciò che è diverso, non solo nel caso, questo caso dell'omosessualità, ma di immigrati o di qualsiasi forma di novità o di diversità che viene subito allontanata da noi con questo atteggiamento iperprotettivo. Siamo in una società che parla di privacy, di difesa della privacy, ma in realtà invece siamo alla difesa delle nostre paure, ecco, è la paura che genera il virus della paura che produce gli effetti devastanti che si vedono in questo spettacolo. Ecco, proprio a questo proposito, Angelo, quali sono gli elementi del testo e dello spettacolo che hai visto a Barcellona ad averti più convinto? Sono due. Uno formale, in quanto regista, ho visto un testo meraviglioso perché non si svolge in maniera cronologica. Il testo va avanti e indietro come in un rewind, che prima vedi una scena e poi ne vedi una due volte. Il che aiuta, non so se hai presente quel film famoso Rashomon, dove sì, ognuno diceva la sua verità, no? E tutte le volte dovevi vedere i fatti attraverso gli occhi di uno degli inquisiti, dei protagonisti. Lo stesso succede qui, il fatto di andare avanti e indietro ti fa cambiare punto di vista ogni volta sulla vicenda. E questo è molto bello, soprattutto per il tema che affronta, no? Perché in fondo è uno spettacolo che alla fine non prende posizione, non saprai assolutamente da parte dell'autore dello spettacolo qual è la verità, e potresti dire allora è una brutta cosa questa, perché uno spettacolo che non prende posizione è uno spettacolo che non è coraggioso, che non si schiera. No, perché quello che fa lo spettacolo è costringere lo spettatore a prendere posizione. Non è importante che sia lo spettacolo a prenderla, l'importante è che lo spettatore di fronte a questa cosa si ponga, lui esca emozionato e dica: ma io da che parte sto? Cosa ne penso di questa cosa? Questo è il primo aspetto bello che mi ha colpito dello spettacolo, che è una cosa formale. E poi la tematica è bellissima perché affronta temi, una serie di temi tutti insieme, cioè per esempio questa identificazione di pedofilia e omosessualità, no? È una cosa che si fa, è un errore che viene fatto anche qui in maniera spesso voluta, ideologica, oppure la trasformazione di un dubbio in una verità non verificata, no? Una volta succedeva con i pettegolezzi, con le dicerie, e oggi succede con i fake che invadono la rete, no? Poi il fatto di sbattere il mostro in prima pagina come una sorta di protezione propria, no? Dice non, sì, il mostro è lui, no? Quindi io sono dalla parte del giusto. E soprattutto questo clima che pian pianino, senza accorgersi, porta alla violenza anche fisica, come abbiamo visto anche questi giorni, partendo dal sospetto e dalla non accettazione della diversità, mm-hmm, in cui si parte da questa debolezza interiore propria che poi si trasforma in una violenza oggettiva esterna, aggressiva e distruttiva. Quindi un testo che parla veramente di noi oggi e lo fa in una maniera, perdonami se dico questa cosa, lo fa in una maniera che non è ideologica, cioè nel senso è uno spettacolo impegnato, ma noi a volte siamo abituati a pensare che uno spettacolo impegnato sia quello che ti dà una tesi, no, e te la difende fino in fondo, con il problema che poi alla fine lo spettatore, quello che è convinto di quella tesi, resta convinto di quella tesi, e chi non l'è convinto se ne va via rimanendo non convinto. Invece questo è un testo dialettico che ti pone, che facendoti vedere la verità una volta da una parte, una volta dall'altra, facendoti dubitare costantemente del giudizio che stai dando su quello che vedi in scena, ti porta a farti delle domande e quindi poi a far venire fuori la tua posizione reale nei confronti di queste problematiche. A proposito di tesi, qual è il principio di Archimede? Vabbè, il principio di Archimede in matematica è quello che un corpo immerso nell'acqua riceve una spinta dall'alto verso il basso pari al peso del volume dell'acqua spostata. Il caso di questo spettacolo è che, buttato un sasso dentro l'acqua, si creano delle reazioni contrarie, cioè come ogni azione ha una reazione. Sì, la gente deve essere convinta che fare una cosa non è innocente, ma che mette in moto un meccanismo di reazioni contrarie che può portare a una deriva anche pericolosa. Quindi credo che la metafora, un po' è perché è ambientato in una piscina dove ci sono i bambini che nuotano, che devono imparare che il corpo riceve dall'acqua una spinta a rimanere a galla, diciamo, ma dall'altro è proprio un problema legato alle conseguenze delle cose che facciamo, delle piccole azioni che facciamo, sia quella che fa l'istruttore dando un bacio a un bambino che può provocare questa spirale di sospetto e poi di violenza, sia quella che fanno i genitori accanendosi su questo ragazzo senza averne assolutamente la prova di quello che poteva essere il contesto in cui è avvenuta questa cosa, e che però, come di solito è la paura, cioè cieca, non guarda intorno a sé ma si abbandona, si nutre di se stessa e diventa sempre più vorace. In chiusura, dopo Firenze ci sono già altre date fissate in giro per l'Italia? Guarda, c'è molta attenzione, vengono delle persone da Roma a vederlo perché insomma, è uno spettacolo che dovrebbe essere visto dappertutto. Noi procediamo sempre così, prima facciamo lo spettacolo al meglio qui nel nostro teatro di Firenze, siamo un centro di produzione stabile per cui prima di tutto ci preoccupiamo di quel pubblico vasto e molto motivato che segue il nostro teatro, e da lì poi col tempo, a volte ci mettiamo anche un po' di tempo, abbiamo fatto due spettacoli importantissimi, La Bastarda di Istanbul l'abbiamo fatto 3 anni fa, quest'anno sarà a Roma alla Sala Umberto, l'ultimo Arema è uno spettacolo che dura da 12 anni continuamente, quindi abbiamo la capacità di tenere gli spettacoli quando vengono bene, quando hanno l'apprezzamento del pubblico e della critica, di tenerli a lungo. Però mi premeva dire una cosa in conclusione, sì. Se siamo in conclusione, che ho 4 attori in questo spettacolo che sono bravissimi e meravigliosi. Bene. Da Giulio Maria Corso, che è il protagonista, fino a Monica Baugo, Riccardo Naldini e il giovanissimo Samuele Picchi, hanno fatto un lavoro straordinario perché il pubblico è in scena insieme a loro, su 2 gradinate ai lati di questo spogliatoio della piscina, a 1 metro da loro, e hanno dovuto fare un lavoro di, siccome il tema dello spettacolo è anche la verità, quindi anche la verità personale, vera, dell'attore che recita, deve essere vero nel dire quello che dice, che sono cose molto sottili e importanti, hanno fatto un lavoro bellissimo, e se lo spettacolo avrà successo sarà grazie a questa loro prestazione emozionante. Allora ricordiamo il principio di Archimede, un saluto e un ringraziamento ad Angelo Savelli che ne ha curato la traduzione e regia. Angelo, ci vediamo a teatro. Spero. Un abbraccio. Se o in qualche altro posto dopo che lo spettacolo avrà dimostrato il valore delle tematiche che affronta. A presto allora. Ciao. Saluti a tutti. Lo spettacolo Il principio di Archimede di Josep Maria Miró, traduzione di Angelo Savelli con la collaborazione di Josep Anton Codina, regia Angelo Savelli con Giulio Maria Corso, Monica Bauco, Riccardo Naldini, Samuele Picchi, in scena allo Spazio Diamante a Roma fino al 17 marzo 2019. L'agenda della settimana teatrale. con l'attrice Francesca Farcomeni per parlare dello spettacolo Radio Ghetto, Voci Libere, dal 14 al 17 marzo 2019 a Roma, Teatro Studio 1. Francesca, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutte e tutti. Che cos'è questo spettacolo? Dunque, questo spettacolo porta in scena un vastissimo archivio che il collettivo di Radio Ghetto ha raccolto in questi anni nei ghetti dei braccianti agricoli nell'agro Fozzano, più o meno sì, dal 2012 ad oggi. È un progetto di una radio, appunto, che è stata costruita in uno di questi ghetti, ed è una radio partecipata, quindi è uno spazio aperto che dà voce ai braccianti che vivono in questi periodi in cui c'è bisogno, appunto, di manodopera in queste campagne. Loro, appunto, hanno raccolto moltissimo materiale audio di testimonianze e pensieri liberi, appunto, voci libere, e hanno deciso di farlo uscire, questo materiale, da questa radio, di portarlo fuori anche per condividere un po' il progetto che loro hanno portato avanti e portano avanti da tanti anni, e di farlo incontrare con il teatro, sostanzialmente, quindi di uscire da un aspetto che fosse anche soltanto sonoro e di unirlo ad uno anche visivo, diciamo così, figurativo, scenico. Per cui io sono stata contattata l'anno scorso in una prima uscita del progetto in occasione di un bando che c'è stato al Cinema Palazzo, e abbiamo cominciato a costruire questa nuova vita, ecco, di queste voci. E io sono in scena da sola, però dialogo con queste tracce audio attraverso delle cuffie che anche il pubblico ha, per cui la mia voce e le voci di queste tracce passano da me al pubblico e costruiamo una storia, diciamo, nuova in dialogo con queste tracce audio. Quindi la relazione passa attraverso delle cuffie, in questo caso, di nuovo, per cui si porta la radio a teatro. Era un po' questa la volontà del collettivo, no? Come portare, come unire questi due linguaggi in qualche modo. Mm-hmm. Ecco. Che panorama umano esce fuori da queste testimonianze? È molto, come puoi immaginare, molto vario, no? Però, diciamo, il ghetto poi è anche un posto molto complesso da raccontare, no? Diciamo, è difficile raccontare un posto, soprattutto se non ci si è stati, poi esci anche un po' fuori dallo spettacolo, per cui è un posto che ti porta a pensare spesso soltanto in una direzione, no? In realtà poi il ghetto è fatto di molte cose, ci sono tanti aspetti, quelli brutti, quelli belli, quelli incredibilmente sorprendenti, quelli inaspettati, per cui, diciamo, il panorama è molto vario, ecco, è veramente difficile dare, come dire, un'immagine unica ad un posto così, perché non è un posto solo, sono tanti posti tutti insieme, è difficile. Io poi personalmente devo dire non ci sono stata, perché diciamo non ho fatto parte del progetto Radio Ghetto. Loro mi hanno contattato per dare voce, appunto, a questo progetto, però a un certo punto, ecco, tutti questi racconti me lo hanno anche un po' preso più vicino, sì, ecco. E quali sono gli aspetti che più ti hanno impressionato di queste voci? Sicuramente le contraddizioni, no, perché appunto, come ho appena detto, è un posto indefinibile, per cui appena tu pensi di averlo capito, no, e di avergli dato anche una faccia, se possiamo dire, così come le persone che io ascolto continuamente in cuffia, poi a un certo punto tutto si rimescola e si contraddice, quindi quello che mi resta, più impresso, è proprio l'impossibilità di dare un'immagine unica in questo posto. Non so come altro posso dire, perché appunto succedono tante cose e succedono tutte magari nello stesso momento, no? Quindi è veramente un po' una cosa molto catturante anche, devo dire, è molto... Sì, è unico, è una realtà, appunto, poi esiste, non esiste, non si capisce bene, a volte c'è, a volte non c'è, poi si appunto esiste in un momento, poi tutto si distrugge, poi si ricostruisce, è una cosa, è veramente un posto altro, è una realtà sospesa, quasi irreale, che però con la quale però abbiamo e dobbiamo continuare ad avere a che fare, no? Sì. Purtroppo. Insomma, è veramente incredibile, è un posto incredibile, perché poi tutti i racconti anche del collettivo sono pazzeschi, cioè veramente succede di tutto, nel bene e nel male, eh? È anche un posto molto attraente certe volte, però sì, incredibile. Questo è la prima uscita e poi ci sarà un percorso di questo spettacolo? Allora, guarda, questo appunto c'è stato un piccolo studio di una ventina di minuti, 15-20 minuti l'anno scorso al Cinema Palazzo, poi abbiamo partecipato a questo bando pillole del Teatro Studio 1 che poi ha deciso di coprodurre il progetto, per cui questo è il debutto ufficiale del progetto, sì, il 14 marzo, giovedì, sarà la prima ufficiale, poi chiaramente... ovviamente come sempre si spera che abbia una vita più lunga, no? E che da qui si parta in qualche modo, perché poi i progetti, soprattutto quelli vivi, così diciamo, hanno sempre bisogno di un tempo più lungo, no? per crearsi in qualche modo. Quindi sicuramente è un debutto, ma uno insomma con la volontà poi di andare sempre avanti. Sì. In questo senso ci lasci tutti i riferimenti web se c'è qualche spazio dedicato? C'è l'evento su Facebook, c'è Maria Genovese che si occupa dell'ufficio stampa e poi personalmente tutti noi facciamo la nostra parte, quindi sui nostri social, sia i miei, Francesca Falcomeni, ma anche Luca Lotano, e poi c'è chiaramente anche la pagina Facebook di Radio Ghetto Voci Libere, dove sicuramente si possono trovare tutte le informazioni utili, e poi il Teatro Studio 1 che ci ospita in questi 4 giorni. Benissimo. Quindi diciamo sono un po' questi canali di riferimento. E allora ripetiamo l'appuntamento con lo spettacolo Radio Ghetto Voci Libere dal 14 al 17 marzo 2019 a Roma al Teatro Studio 1. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Francesca Falcomeni. Un abbraccio, grazie. In bocca al lupo e a risentirci, grazie. Presto. Grazie a voi, grazie mille. Buona giornata a tutti e tutte. Ciao, ciao, ciao. Con Massimo Wertmüller per parlare dello spettacolo La gente di Cerami, dai racconti di Vincenzo Cerami adattati da Aisha Cerami, a Roma al Teatro Vittoria dal 7 al 17 marzo 2019. Massimo, ben trovato. Buongiorno a voi, signori. Lo presentiamo, ce ne parli? Allora, guarda, è molto semplice perché mi è capitato ovviamente di parlarne e io potrei definirlo, presentarlo così. Ci siamo trovati di fronte a una necessità, diciamo così, che è quello di trasmutare un linguaggio assolutamente letterario, perché questi sono tutti racconti strappati proprio e reinterpretati, rivisitati dalle pagine dei libri di Cerami, prima di tutto La gente, appunto, e quindi che hanno sempre avuto una connotazione molto letteraria. Ora, il problema che ci è parso subito davanti è stato quello di trasportarlo su una cifra terrena. Perché? Perché Vincenzo, quando ha scritto per il teatro, ha scritto cose indimenticabili come Canti di scena, oppure quello che io umilmente ho fatto, La casa al mare, che è stato un grandissimo successo. E quando ha scritto per il cinema, cioè insomma quando è stato specifico, mettiamola così, ha vinto pure l'Oscar, quindi addio proprio, cioè, è stato sempre grande nei contesti richiesti. Qui si tratta di prendere un Vincenzo, che era quello letterario, e portarlo sul palcoscenico. Siccome è un uomo molto intellettuale, sofisticato, ma anche molto popolare, perché sappiamo che è stato un allievo di Pasolini e tutto quanto, e sappiamo quanto sia stato nella sua intelligenza e grandezza popolare Pasolini. Poi ci siamo trovati di fronte a un lavoro facile, poi da un certo punto, non in questo viaggio dalla pagina al teatro, sì, ma nella sua cifra stilistica, perché è divertente, ironico, graffiante come Vincenzo, per cui poi alla fine si è trattato solo di mettere circolazione sanguigna in quei personaggi che lui aveva descritto sulla carta. E insomma, quel poco o tanto che è stato fatto fino a mo, perché noi insomma l'anno stavamo nel ridotto del vascello per mesi, ci hanno confortato a pensare che ce l'abbiamo fatta. Ma l'idea di partenza come era nata? A questo, guarda, l'idea di partenza era quella di fare, immagino, perché l'idea di partenza è stata nelle teste di Norma Martelli, che è la regista, okay, di Nicola ovviamente Piovani, che ha fatto le musiche, che è stato il suo amico di sempre, di Aisha, che è la figlia, e io e Anna Ferruzzo come attori, e Sergio Colicchio e Alessio Mancini come musicisti, siamo stati chiamati a realizzarla quella idea. Però immagino che prima di tutto ci sia stata la necessità di fare un omaggio a Vincenzo. Ecco, immagino che sia stato questo il discorso. Mai è stato tardivo l'omaggio a Vincenzo, perché Vincenzo è stato davvero un autore speciale, molto molto raro, insomma unico per certi versi. Quanti sono i personaggi ritagliati dai suoi lavori? Ah, bravo, bella domanda. Lo sai che non l'ho mai considerato, come fosse un dettaglio, hai capito? Okay. So che sono tanti capitoli, tante storielle, okay, capito? Diciamo che sono tante, ecco, e quindi che si vede una carrellata di tanti personaggi che nel loro grottesco, mettiamola così, sono però molto vicini a noi. Cosa ti ha impressionato particolarmente di questi ritratti? Beh, un po' quello che mi impressiona, mi ha sempre impressionato di Vincenzo, la sua poetica, mettiamola così, cioè il saper cogliere l'epica, la grandezza nella piccolezza del quotidiano, anche più grigio, più banale, cioè di tirar fuori da questo, hai capito, una poetica, che è proprio di vivere, è stata proprio, è un fatto proprio di Vincenzo, insomma. È uno spettacolo che proseguirà il suo percorso dopo Roma? Diciamo che Roma, dopo Roma, ripeto, noi l'abbiamo fatto in un ridotto per non, così, per testarlo. Okay. Adesso il test è più grosso, perché Vittoria è Vittoria, per cui diciamo che il futuro un po' di questo spettacolo è molto legato a come andrà Vittoria. Ecco perché ringrazio te e chi ci aiuta nella promozione, perché almeno se non ci siamo rimbecillini, io non c'ho un coccolone in scena, io non c'ho un vuoto di memoria che faccio, scusate tutti, ricomincio da capo, sai quelle cose che è l'incubo dell'attore, se non succede che proprio mi sono incoglionito senza nessuna speranza, se non succede questo non offriamo una sola al pubblico, questo è poco ma sicuro. E allora ricordiamo l'appuntamento romano con l'agente di Cerami, racconti di Vincenzo Cerami adattati da Aisha Cerami, con Massimo Wertmüller e Anna Ferruzzo, a Roma al Teatro Vittoria dal 7 al 17 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Wertmüller. Un abbraccio. A voi, che Dio ti benedica. Grazie. E in bocca al lupo, a presto. Viva il lupo, grazie a tutti. Ciao, un bacio. Con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica siamo arrivati allo spazio dell'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti settimanali. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutti quanti. Dici tutto. Che cosa andiamo a vedere questa settimana? Beh, insomma, abbiamo un po' di cosine da segnalare, lo andiamo a fare prontamente. Allora, prima cosa, ti porto al Teatro Argo Studio Perché questa settimana, da stasera fino a domenica 17, sarà l'occasione per il nuovo lavoro di Maria Teresa Berardelli con la regia di Andrea Baracco, in scena Maura Fettorrusso e Woody Neri, quindi insomma nomi che conosciamo bene nel nostro immaginario, soprattutto nel panorama romano, ma non solo. In scena lo spettacolo sarà Itaca per sempre, di un autore della letteratura del Novecento come Luigi Malerba, in cui si racconta il viaggio di ritorno di Ulisse nella sua patria, però ribaltando la storia dei due coniugi, ossia umanizzando il mito e costruendo una narrazione che alterna i pensieri di Ulisse a quelli della moglie, appunto Penelope. Quindi una sorta di etica un po' particolare da martedì questa sera fino a domenica 17 marzo al Teatro Argo Spurio di Trastevere. Al Teatro Vascello invece, da questa sera fino a domenica, i sonetti di Shakespeare con la versione italiana, l'adattamento di Walter Malosti, che cura anche la regia, e la coreografia invece di Michela Lucenti. Saranno in scena entrambi con altri attori, quindi è un lavoro proprio dedicato a Shakespeare, che parzialmente ha una parte di coreografia, quindi una parte danzata, una sorta di enigma impenetrabile a un destinatario sconosciuto. Questi sonetti, insomma, sono un po' una particolarità unica all'interno della produzione shakespeariana, è un inedito monologo maschile. Ci sarà appunto questa ricostruzione della nuova drammaturgia con i sonetti di Shakespeare, andremo al Teatro Vascello fino a domenica 17. Poi al Teatro Spazio Diamante andremo a vedere questo lavoro di Sef Maria Miró, un autore spagnolo, dal 14 al 17 di marzo. Per questo lavoro, con la regia di Angelo Savelli, Il principe di Archimede, appunto, che sarà non solo in scena da noi, diciamo in ascolto da noi, ma sarà anche in scena ancora per questo ultimo weekend. Ancora Federico, vediamo un po' dove ti posso portare, tu che sei così bravo vieni con me tranquillamente che ti fai insomma trasportare. Allora, ecco qua, Off of Theater, 15-17 di marzo, Gianluca Ferrato porta in scena Parla d'amore, porta in scena Truman Capote, questa cosa chiamata amore, spettacolo ovviamente dedicato al grande autore Truman Capote, grande autore americano. È stato scritto lo spettacolo da Massimo Sgorbani, che è uno insomma dei maggiori autori teatrali nazionali, e se ne va appunto in scena con questa regia di Emanuele Gamba, appunto, che per l'interpretazione di Gianluca Ferrato. Un omaggio a questo grande scrittore del Novecento, autore di classici come Colazione da Tiffany e Sangue Freddo, per citare solo due dei romanzi più conosciuti. Lo andremo a vedere appunto al Teatro Off of Theater da venerdì, sono arrivato, fino a domenica 17. Ancora qualcos'altro da ricordare? Allora, sicuramente al Teatro di Roma, al Teatro India, dal 12 al 17 di marzo, quindi da questa sera, c'è il debutto del drammaturgo portoghese Tiago Rodriguez con Gioie e dolori nella vita delle giraffe, in scena, riportato in scena dal regista Teodoro Bonci del Bene. Una sorta di favola straniante sui contrasti, gli opposti che caratterizzano la nostra realtà. Un testo giocato sugli scatti linguistici, sui sogni reali e profondi, e come appunto si legano, no, alla nostra realtà. Quindi un lavoro molto, molto particolare, molto delicato, quello che andrà in scena al Teatro India fino a domenica 17. Poi, allora, Teatro Eliseo, da domani fino al 31 di marzo, l'occasione per andare a vedere il debutto di Gabriele Labbia, I giganti della montagna, e di Luigi Pirandello. Sappiamo che questo è un testo di Pirandello molto particolare nella sua produzione, perché è un testo rimasto incompiuto, ma per essere ancora più precisi, probabilmente la sua incompiutezza è stata decisa probabilmente dallo stesso autore. diciamo, morto senza aver compiuto questo suo ultimo lavoro, sarebbe, insomma, fa la summa della sua poetica in qualche maniera. Quindi, fino al 31 di marzo da domani, Gabriele Lavia con Federica Di Martino in scena per questi giganti della montagna. La vita è vento, la vita è mare, la vita è fuoco, non la terra che si incrosta e assume forma, ogni forma è la morte. Poi al teatro invece, eccolo qua, dove esci fuori teatro, benissimo, al teatro Quarticciolo ci sarà l'occasione per ben due lavori. Il 13, ossia domani, andremo a vedere l'amica Monica De Muro insieme a Cristiano Calcanile con questo lavoro, parte teatrale, parte musicale, Blastula Scarno Duo, voce e percussioni per il musicista e soprattutto la voce e il canto, quella di Monica De Muro. Andremo a cercare le tradizioni popolari, le figure di un dramma che si trasformano blocco dopo blocco. Il tema è quello dell'identità come stratificazione di vite e memorie. Domani sera 13 marzo al teatro Quarticciolo, ma non è l'unica attività del Quarticciolo, perché il weekend porterà 15 e 16 di marzo Rosa, 10 esercizi per nuovi virtuosismi, Silvia Gribaudi e la danza, appunto, che vede in scena Claudia Marzicano, questo lavoro appunto che è una coreografia di Silvia Gribaudi che con ironia dissacrante porta in scena l'espressione del corpo della donna e del ruolo sociale che essa occupa, questo al teatro Biblioteca Quarticciolo. Poi, dunque, venerdì a Spin Time Labs, da non perdere l'ennesima possibilità di vedere il monologo di Claudio Amorici, L'ultima volta che mi sono suicidato, lavoretto davvero con gli occhi, quindi da non perdere assolutamente. Ultimissime cose, al teatro Torlonia andremo a vedere due lavori, Senso con la regia di Walter Marosti, l'opera di Camillo Boito che sarà in scena da questa sera fino al 14 di marzo, quindi fino a giovedì alle ore 20, e vedrà in scena Irene Ivaldi. Mentre a seguire, sempre nel cartone del Teatro Torlonia, 15-17 marzo, sempre Walter Marosti, un primo studio reading da Tolstoi con Anna Karenina, sempre Irene Ivaldi, che sarà appunto poi protagonista di questo lavoro. Quindi anche al Teatro Torlonia avremo Walter Marosti come appunto al bascello, dove presenterà invece i sonetti. Ultimissimo di cui ti parlo è il teatro Tor Bella Monaca, perché questa settimana al Tor Bella Monaca andremo a vedere tre lavori, domani e dopodomani 13 e 14, per vedere questo lavoro diretto da Massimiliano Iacolucci dedicato a Giacomo Leopardi. Cioè, Giacomo Leopardi, mio carissimo papà, Leopardi, tutto via, non aveva figli, quindi è interessante andare a vedere un po' la storia di un uomo oltre il mito, il racconto di una vita vera, effettiva, vista dagli occhi della Paolina, ma Paolina Ranieri, la figlia dell'amico che lo ospitò e lo accolse a Napoli, dove Leopardi trovò la morte. Andremo anche venerdì 15 e 16 sabato a vedere il lavoro di Antonella Salvatore che si chiama Doppio Legame, il mondo infernale quando da una parte ci dovrebbe liberare dall'altro, dell'altro che ci sottomette con una continua violenza psicologica. Questo, la violenza psicologica, è nell'ambito del convegno La violenza sulle donne e sul bambino, che sarà organizzato dal Dipartimento di Neuroscienze dell'Istituto Superiore di Sanità, andremo a vedere questo lavoro che appunto un po' se ne occupa dal punto di vista teatrale. 15 e 16 marzo al teatro Tor Bella Monaca. Teatro dove da questa sera fino a domenica sarà in scena di nuovo la commedia di Gaetanaccio con il nostro caro Giorgio Diabassi e Carlotta Proietti, opera di Luigi Magni, regia di Giancarlo Pares. Io l'ho vista, è molto divertente ed è un'opera che consiglio anche, diciamo, per chi non mastica teatro, il teatro, diciamo, più sperimentale, ma magari vuole vedere una commedia musicale di quelle, insomma, di tradizione romana che tanto hanno dato al nostro teatro e non solo al nostro teatro. Questo testo, ricordo, 40 anni fa è stato messo in scena con il ruolo di protagonista Gigi Proietti. Questo, Federico, è tutto. Un abbraccio, Simone. Ciao a tutti.